La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Buon anno a tutti, La Rosa Purpurea versione Capodanno con Franco D'Assisti, con Valerio Guslandi che è qui con noi. Buon anno Valerio, un vecchio amico che è ancora qui con noi, come è stato nella puntata di Natale, perché La Rosa Purpurea anche in queste feste ha preparato un paio di puntate speciali. A Natale abbiamo parlato un po' di tutto il cinema che c'era da vedere, visto e considerato che nuovissime uscite non se ne vedevano molte, e invece in questa puntata che abbraccia l'inizio del 2016 vogliamo proprio puntare un po' in là, puntare almeno il nostro cannocchiale fino alla prossima primavera estate, cominciare a pensare, anche a prepararci psicologicamente a quelli che saranno i film che arriveranno nelle sale nelle prossime settimane e poi anche nei prossimi mesi, anche perché l'attesa aiuta, l'attesa sempre almeno uno sa cosa c'è, si prepara, dice a marzo esce Tarantino, c'è tutto questo tipo di lavoro. Allora lo faremo come sempre con la nostra tempistica, facendovi ascoltare molto di quello che è già disponibile a livello di trailer e di anticipazioni, ma lo facciamo soprattutto cominciando invece dalla stretta attualità, perché questo Capodanno è il momento prescelto per l'uscita almeno di un paio di film, soprattutto uno di grandissima portata, forse il più grande dell'anno per quanto riguarda l'incasso. Stiamo parlando ovviamente di Checco Zalone con il suo Quo Vado, che ha scelto proprio la data di Capodanno per arrivare nelle sale. Sentiamo la clip. Mi faccia capire, da quanto tempo non ne dice una? Saranno 5 o 6 mesi, da cipicchiolino. E di questo ne soffre? Per d'incibacco se ne soffro. Ci ho costruito una carriera su, adesso esce il mio film e non ce ne sono. Si immagini la delusione dei bambini. Mannaggia il diavoletto. Il suo film esce il 1 gennaio, vero? Sì. E sarà gratis per tutti? È un cazzo. Madonna mia, grazie, grazie. Sono valito. Grazie. Quant'è? 250 euro. Ma va. Straordinario Checco Zalone con prenotazioni a tappo, diciamo così, in molte sale italiane che lo programmano. Quando la spinta di Star Wars non si è ancora esaurita, anche se i 15 giorni in sala di Star Wars qualche schermo l'hanno liberato, insomma alla fine la battaglia del Natale Capodanno è questa, Star Wars contro Checco Zalone. Esatto, Italia Stati Uniti, sì. Allora, un Checco Zalone con questo Quo Vado, sin dal titolo abbastanza intrigante, che cerca di, come dire, di continuare un percorso che l'ha portato da sketchman molto molto comico a cercare di dare anche una struttura al suo cinema. Sì, non sono film episodici quelli che ha fatto via via, e credo neppure questo, insomma, quindi hanno una loro struttura, una comicità più distribuita, più completa, anche meno volgare. Aspettiamo il responso, che penso appunto sia comunque, poi alla fine quando ci saranno i numeri da tirare saranno alti. Certo che si parte dai 50 milioni di incasso dell'ultimo, sì, Sole a Catinelle, non sarà facile. No, non è facile, però perché non può. No, non vorrei dire, no. Se non vorrei sentire nessuno dire ma ha incassato solo 35 milioni. No, neanche questo è successo con Aldo, Giovanni e Giacomo, quando sì, anche loro hanno avuto una proiezione, hanno raddoppiato, poi a un certo punto si sono un po' assestati. Certo, però si sono assestati sempre a livelli di incasso. Avere questi risultati. Zalone con quegli soldi lì, con quegli incassi lì, diventa anche un po', e lo è stato nelle stagioni scorse, un po' il salvatore della stagione, sì, tante rimette volte, in no? gioco tutto proprio il lavoro che c'è dietro al cinema. Noi vediamo solo il prodotto finale, ma ci sta tutta una serie di attività dietro che danno da mangiare a tanta gente, quindi insomma ci vogliono questi film. E allora Checco Zalone nelle sale cinematografiche settimana prossima. Ovviamente la nostra puntata fra virgolette tradizionale della Rosa Purpurea, vi diremo com'è andata questa prima settimana a livello di incassi. Però c'è un altro film che arriva nelle sale in questo, proprio in questa data così simbolica del primo giorno dell'anno, ed è Il Piccolo Principe. C'era una volta un piccolo principe che viveva su di un pianeta poco più grande di lui. Un asteroide, l'asteroide B612. Wow! Al Piccolo Principe piacevano molto i tramonti. A giocare con me. Non posso giocare con te. Non sono addomesticata. Ciò che è essenziale è invisibile agli occhi. Non sono più sicura di voler diventare grande. Il problema non è diventare grandi, ma dimenticare. Tu diventerai una meravigliosa adulta. È un clima un po' new age per questo piccolo principe, una favola assolutamente senza età che adesso trova la via dell'animazione con la direzione di Mark Osborne. Aveva fatto Kung Fu Panda, quindi siamo sempre nell'animazione. Ecco, non proprio uguale, ma ti chiedo quello che abbiamo detto anche un po' con Star Wars. Lì c'era il mito e poi c'è l'attualità, c'è l'oggi. Anche in questo caso, l'oggi, cioè questo film, questa animazione, queste modalità espressive, si scontrano con un titolo che nell'editoria per ragazzi di tutta l'età e di tutti i tempi è super presente. È un gigante. Un rischio anche questo. Sì, è sempre un rischio, però direi che qui lo hanno anche adattato, cioè c'è la storia del piccolo principe, è inserita sulla storia della bambina protagonista che ha una sua storia, quindi è un po' a incastro, hanno cercato di fare una bambina in carriera, tra virgolette, o spinta in carriera dalla madre, che incontra un anziano e che poi gli racconta la storia del piccolo principe, quindi c'è anche un'attualizzazione, certamente il titolo è molto forte, però perché non provarci? Io amo molto le scommesse, quindi. E allora, il piccolo principe è già nelle sale e questi sono i film che il 1 gennaio hanno scelto di uscire, di inaugurare il 2016. Ma che 2016 sarà per il cinema americano, per il cinema francese, per il cinema italiano, per il cinema italiano d'autore? Beh, un piccolo frammento di prima risposta lo troveremo il 14 gennaio, quando arriverà nelle sale la corrispondenza di Giuseppe Tornatore. Pensi che noi due ci siamo detti sempre tutto? Segreti, misteri. Noi due siamo tutto un mistero. Lo so che sei arrabbiata con me perché sono sparito. Non puoi lasciarmi in un labirinto senza via d'uscita. Il mio errore è stato non averti incontrata prima. Ti aspetterò. Sempre. E allora, ti aspetterò sempre, un tornatore che con questo film ritrova le atmosfere, diciamo, più autorali, più intime, no? Che sono state anche quelle, per esempio, del suo ultimo film. Cioè... Sì, poi anche la dimensione internazionale che ormai continua ad assumere, perché dopo La migliore offerta, sempre all'estero, sempre attori stranieri. Comunque che sempre... storia è questa, in breve? Beh, c'è questa stunt woman, sostanzialmente, che è innamorata di un... astrofisico che a un certo punto sparisce, salvo poi fare delle telefonate, si sentiva una voce telefonica anche in questo lancio, e lei che cerca di recuperarlo, di ritrovarlo, insomma è questa ricerca dell'amore che si è disperso senza sapere esattamente perché. E ricordiamo Jeremy Irons e Olga Kurylenko che vediamo anche in Perfect Day, tra l'altro ancora in questi giorni, quindi insomma è un po' il suo momento sugli schermi italiani. Sempre 14 gennaio ritorna in un certo senso la saga di Rocky, anche questa una che come Guerre Stellari ha avuto poi è proprio... i suoi 7 episodi. Questo è uno spin-off, veramente, cioè è una costola che si stacca, esatto. Si chiama Creed, Nato per combattere, ricorderete Apollo Creed, che appunto è stato uno fiero rivale di Rocky. Ecco, stavolta il figlio di Apollo Creed viaggia per incontrare Rocky Balboa, ex campione del mondo, nella speranza di chiedergli di essere il suo allenatore. La gente muore sul ring, tuo padre è morto sul ring. Io non l'ho conosciuto. Ho sentito di un terzo match tra te e Apollo, ma a porte chiuse. Come fai a saperlo? Sono suo figlio. Volevo chiederti di allenarmi. È tutta la vita che combatto. È il mio destino. Ogni singolo pugno ho imparato a tirarlo da solo. Sono pronto. Lo vedi quello? È l'avversario piuttosto che dovrai affrontare. È la verità sul ring ed è la verità nella vita. Fammi vedere qualcosa. Valerio, devo dire che il Rocky Balboa, cioè il film che era arrivato qualche anno fa con Rocky un po' anziano che gestisce il ristorante, era che vive un po' incalando. Ecco, però secondo me aveva una sincerità dentro proprio nella mano di Sylvester Stallone che aveva forse un po' rivitalizzato, non dico tutta la saga, ma almeno il personaggio, gli aveva dato una dimensione più umana. Qui come siamo posizionati? Cioè, tanto per far soldi, per intenderci? No, non credo. Tra l'altro Stallone ne hanno parlato tutti così bene. Anche lui si dovrebbe meritare una candidatura come non protagonista agli Oscar, presumibilmente. È il film in cui è più maturo. Quindi no, direi che... Allora, alla base, secondo me, c'è lui che non si riesce a staccare da questa storia. Questo personaggio, visto che l'ha creato comunque lui. Però quando lo ripropone, in questo caso ha riproposto con una variante, credo che sì. c'è sempre di mezzo l'obiettivo di fare dei soldi. No, questo è assolutamente legittimo, no? Ecco, intendo dire che. Però lui ci tenta di mettere un rapporto sincero con questo personaggio, e questa è la cosa importante. Io andrò a vederlo sicuramente, ma vi ricordo che di questo e come di tutti i film che vi racconteremo da ora in poi, tutto il 2016 del cinema, in questa nostra ora alla Rosa Purpurea, parleremo piano piano, man mano che le settimane ci permetteranno di poterli affrontare con il film in sala. Adesso, linea alla viabilità, fra poco torniamo perché il 28 gennaio sarà il momento di Carlo Verdone. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presenta La Rosa Purpurea. Eccoci qua, seconda parte della Rosa Purpurea. Carlo Verdone, il 28 gennaio chiude il primo mese dell'anno con il suo ritorno con Antonio Albanese, e quindi una coppia sicuramente forte per la locandina e per il cinema italiano. L'attesa è alta per questo film che si intitola L'abbiamo fatta grossa, Valerio. È sempre grossa l'attesa per i film di Verdone. Lui si posiziona quasi sempre, anzi generalmente a febbraio, questa volta una settimana prima, e poi lui ama molto cambiare gli interpreti, quindi questa volta abbiamo Antonio Albanese. È un po' proprio una strana coppia, perché se si va a vedere poi la storia, Albanese è un attore separato, non riesce neanche a ricordare le battute dalla crisi in cui è caduto, però vuol fare stesso sorvegliare la moglie, si affida al personaggio di Verdone, che è un investigatore, io direi provato più che privato, perché non è un granché, ma solo che l'altro non lo sa, e poi ne combinano di tutti i colori, come nella migliore tradizione dei film di Verdone, quando puntano sul comico. Ecco, il 28 gennaio Verdone dovrà combattere con Joy di David O. Russell, con un cast che dice Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro. L'attesa anche per questo film è abbastanza alta. Ricordo che il regista è quello, per intenderci, di American Hustle, tanto per dirne una. Sì, del lato positivo. E del lato positivo. Sì, esattamente, tutti i componenti di questo di cast, quella banda, sì. E quindi tutto sommato un film molto atteso che cerchiamo di vivere un po' nel suo clima in questa clip. Christy, guardami. Voglio che ricordi una cosa. Non pensare mai che il mondo ti debba qualcosa, perché non è così. Il mondo non ti deve niente. Ho grandi ambizioni e grandi idee. Stiamo lavorando su un'invenzione, è una cosa molto seria. In vita sua non ha mai gestito un'attività. È colpa mia, le ho fatto credere che poteva essere più di una casalinga disoccupata. Non voglio fare la fine della mia famiglia. Devo fare le cose per me stessa una volta per tutte. Sono affari miei. E basta. E la parola affari si attaglia bene a questo film, perché è una sorta di biopic, se vogliamo. C'è la storia della vera inventrice del mocio. Tra le varie cose. Il cinema è straordinario, però, perché è un film sull'inventrice del mocio. Io ne avevo visto uno molto bello che si chiama Flash of Genius, era uscito alla Chetichella qualche estate fa, che raccontava la storia dell'inventore del tergicristalli. Col mocio ci siamo superati, però. Siamo superati, però pensa quanto bene ha fatto per le casalinghe. Ma bene. Infatti, merita. Lei da casalinga si riscatta diventando imprenditrice, quindi affrancandosi dalla scarsa considerazione, si sente la voce che doppia De Niro, che è il padre nel film. Quindi è la storia di questa Joy Mangano, si chiama italo-americana, certo, che grazie a lei, con il mocio, andiamo avanti. Andiamo avanti tutti i giorni nelle nostre case. E allora, dal mocio a Tarantino, il passo è breve, dura esattamente una settimana, perché il 4 febbraio, e qui siamo forse nel film di questi che abbiamo raccontato fino adesso e di tutta la prima parte della stagione più atteso, perché insomma il ritorno di Tarantino in sala è sempre un momento che molti aspettano. Tarantino, no? Praticamente tra un film e l'altro abbiamo dei bollettini che ti dicono cosa vuol fare, cosa vorrebbe fare, cose che lui vorrebbe smettere o non vorrebbe smettere. Insomma, questo è un western molto particolare, e che comunque anche con un cast, perché Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Samuel Jackson, Tim Roth, direi che basterebbero già loro. Gli ingredienti ci sono. Sì. Facciamo così, sentiamo la clip e poi ne parliamo. Cosa spinge un uomo ad affrontare una bufera e a uccidere a sangue freddo? Beh, vi assicuro che non lo so. Ok, statemi a sentire. Tutti, accompagnerò questa donna alla forca. La ricompensa è di $10,000. Quel denaro è mio, fanciulli. Oh, interessante. Nessuno ha detto che sarebbe stato un lavoro facile. Ma nessuno ha detto che sarebbe stato così difficile. È un po' di pugni, un po' di cazzotti, un po' di colpi, ma quel che conta, secondo me, hai detto bene tu, il cast, perché? Perché ormai Tarantino lavora esattamente con gli attori che desidera, cioè quando arrivi a quel livello, la cosa bella non è tanto poi cose inventi, qui western, è che tu puoi circondarti degli attori che vuoi, perché intanto basta che alzi la mano e arrivano. Come Woody Allen, cioè corrono, non c'è nessun problema, quindi, ma avere la possibilità di fare così per tutti i registi, delle volte devi inseguirli. Qui siamo nella guerra civile americana, no? Sì. Cioè è un western che però ha uno sfondo storico. Storico, c'è questo cacciatore d'Italia, si è sentito che appunto sta portando una donna, poi che è quella che doveva cacciare, e poi finiranno invece in un rifugio di montagna a essere tutti bloccati insieme a altri personaggi che rivelano sempre tutte le ambiguità che hanno i personaggi dei film di Tarantino. E allora, Tarantino il 4 febbraio, l'11 tocca Zoolander 2, per chiamato la saga di Ben Stiller. Che ha girato eccetera. In Italia, quindi va bene anche quello. E poi il 18 febbraio arriva Tom Hooper con questo Danish Girl. C'è qualcosa che vuoi dirmi? Non dovrai mai farne parola con nessuno. Ma guarda, d'ora in poi ti chiameremo Lily. Stai bene? No. Il fatto è che penso di essere una donna. È un'operazione mai tentata prima. Sei tutta la mia vita. Potresti morire. È la mia unica speranza. Questo non è il mio corpo. Devo lasciarlo andare. E allora, qui c'è una prova d'attore veramente importante, sì, Valerio, perché ricordiamo The Danish Girl, diretto da Tom Hooper, adattamento del romanzo La Danese, scritto nel 2000 da David Eberhoff, ma soprattutto c'è Eddie Redmayne, che insomma, fresco di Oscar, esatto, ricordiamolo, un attore che aveva già impressionato nel musical Les Misérables, poi è arrivato con La Teoria del Tutto, con Jupiter, eccetera, eccetera, e che adesso si consacra in quella che è una vera sfida attoriale, no? Lo sì, è stata la trasformazione nel recitare in un ruolo da donna. Esatto, sì. Complice la moglie che glielo chiede soltanto come così, come tentativo di fare una prova così, una tantum, e poi diventa invece un bisogno quasi di modificarsi, di cambiare totalmente sesso e testa. E qui sposa, se vogliamo, anche un po' quelle atmosfere del cinema civile americano, perché in realtà poi alla fine è la storia di una delle prime persone identificate come transessuale. Sì, c'è il ragionamento sul genere, sull'identità sessuale, che diventa un po' politico, se vogliamo, alla Milk in un certo senso. Sì, no? Direi che si può fare parallelo. Si può mettere un pochino in quel tipo di filone. Quindi questo è un film importante, presentato in concorso a Venezia lo scorso settembre, e è una delle uscite più importanti. Il 18 febbraio Danish Girl di Tom Hooper. Lo stesso giorno arriva un film d'animazione attesissimo di casa Disney che si intitola Zootropolis. Nel mondo di Zootropolis gli umani non sono mai esistiti, il che rende Zootropolis un mondo moderno, civilizzato e interamente animale. Gli animali a Zootropolis sono antropomorfi, che è un parolone ricercato per dire che se ne vanno in giro su due gambe, non vanno al lavoro nudi e usano la tecnologia. Ma la verità è che Zootropolis non è perfetta e, come nel nostro mondo, non tutti vanno d'accordo, specialmente i nemici naturali. 55esimo film della Disney, film di animazione della Disney, il 4 marzo negli Stati Uniti, ma il 18 febbraio da noi. Sì, in anticipo. In anticipo, come accade abbastanza frequentemente negli ultimi tempi, e qui ancora una volta si sono sbizzarriti quelli di casa Disney, no? Con questo mondo al contrario. Sì, è tutto un mondo animale, una città così piena di tutti i tipi di animali, di razze di animali, e con anche un'indagine poliziesca che sostanzialmente è quella che fa un po' da sottofondo a tutto. Di questa poliziotta che è un coniglietto che indaga insieme a una volpe su un delitto, quindi comunque è un film divertente, come cioè, è un Disney che potrebbe anche essere stato Pixar, secondo me. Comunque è un Disney, quindi è il 55esimo di quelli che loro considerano i loro, esatto, la loro lista, capi, quella, quella vera, esatto. Poi dopo c'è Pixar, che non dico viene sopportata, porta parecchi soldi, è sopportata, però molto bene diciamo. Allora cerchiamo di chiudere il mese di febbraio, perché sempre il 18 febbraio è una data da segnarsi. Arriva anche questo film di Gabriele Mainetti, un film italiano, sì, di cui si parla molto già in questa fase, che si intitola, sarà forse per merito del titolo, lo chiamavano Gigrobò, sì. Comunque è molto interessante. Questo è, io credo che vada tenuto molto d'occhio, perché Mainetti, mi ricordo che aveva fatto Tiger Boy, aveva fatto delle cose, ma la storia di Claudio Santamaria, che è un mezzo delinquentello da nulla, che finisce ad assorbire dalla radioattività che lo trasforma in una sorta di superuomo, e da quello si mette a fare ancora più cosa da delinquente, soprattutto illudendo una donna che lui sia effettivamente Gigrobò, perché poi lei lo vede in questo modo. Quindi è un modo diverso, originale, surreale di affrontare una storia. Credo che abbiamo bisogno di questo nel cinema italiano, che sennò ogni tanto si arena. Assolutamente. No, è interessante questa domanda, appunto. Se il ragno avesse punto un delinquentello, cosa sarebbe venuto fuori in questo caso qua? E per chiudere febbraio, e per restare al cinema italiano, Valerio, il 25 arriva Perfetto Sconosciuti di Paolo Genovese, quindi già sappiamo, commedia di successo sicuramente. E il cast è da quelli da fare l'elenco del telefono. Assolutamente, perché, da Casia Smutniak a Marco Giallini, da Valerio Mastandrea ad Anna Fogliette, Edoardo Leo, Beppe Battistona, Alvaro Orvacri, insomma, cioè, tutto il cinema italiano. Tutto il cinema italiano. Di quella generazione. La vedo che Alvaro Orvacri sta passando anche a cose più leggere. Forse le fa bene anche quello. Credo che le faccia bene. È tutta una storia di coppie, di amicizie, tradimenti, insomma, tutto quello che si può essere nella nostra vita, e vedremo. Credo che comunque si presenti con un bel biglietto da visita. Sarà un bel momento di passaggio quello fra febbraio e marzo per il cinema italiano, perché il 3 marzo arriva anche il nuovo film di Paolo Virzì con Michaela Ramazzotti, che è un'attrice che io adoro, devo anche dire. Lui. Questa è una bellissima battuta. E forse anche più di me, probabilmente. Certo. E Valeria Bruni Tedeschi. Virzì è diventato uno degli autori, anche pur, come dire, ragionando sempre, comunque partendo sempre da un clima da commedia agrodolce, da commedia da dramedy, no? Come dicono gli americani, però insomma è oggi uno degli autori di punta del nostro movimento. Adesso non voglio dire che è proprio quello di punta assoluta, però nel passaggio dal cinema che vorrebbe fare Pieraccioni e che non è ancora riuscito, e che è la tradizione del cinema italiano, la commedia italiana, lui è il punto di unione e di continuazione. E cosa aspettarsi da questo La pazza gioia? Beh, comunque anche qua è una storia, cioè qui c'è un altro capitale umano, sono queste due donne che hanno dei problemi psichiatrici e che vivono, sì, escono dall'ospedale, ma credo che insomma gravitano sempre tutto intorno lì, i loro rapporti, quindi non è una storia sulla carta proprio semplicissima e allegrissima. Però conoscendo Virzì credo che tiri fuori il meglio da tutte queste cose. Quindi, e allora 3 marzo l'appuntamento con La pazza gioia di Paolo Virzì. A questo punto noi diamo la linea alla regia, fra poco torniamo insieme, e a marzo cominciano ad arrivare anche alcuni blockbuster come Attacco al potere 2 e soprattutto The Divergent Series, e qui saremo di fronte a un altro film che un po' sulla scia di Hunger Games sempre su quella... sa andare a prendere quel pubblico di teenager e lo sa portare sicuramente in sala. Ne parliamo fra poco. La rosa purpurea. Eccoci ancora qua, La rosa purpurea, speciale Capodanno, ma soprattutto speciale 2016, con tutto il meglio del cinema da vedere nei primi 6-7 mesi dell'anno. Insomma, saremo generosi finché ce n'è, fino a quando sono stati annunciati. Esatto. Tanto, come dire, ormai le stagioni si fanno con molto molto anticipo. Siamo arrivati a marzo, vi abbiamo detto della pazza gioia di Paolo Virzì. Il 3 marzo esce anche Suffragette di Sarah Gavron con Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep. Bel terzetto. Sì. Cosa ci raccontano? Lo sai già? Ma è una storia di emancipazione femminile ed è soprattutto una prova tutta femminile, proprio perché interessante questo fatto di mettere in un cast tre attrici così di richiamo, diverse generazioni anche, però insomma, come dire, che è un film proprio femminile in questo senso. La Strip ci vuole sempre ormai nei film per dare una specie di icona femminile. La Bonham Carter è abbastanza eccentrica, Carey Mulligan è comunque una delle giovani generazioni molto interessante. Quindi. E questo quindi Suffragette 3 marzo anche Attacco al potere 2, London Has Fallen. Ricorderete qualche anno fa, appunto, Attacco al potere, Olympus Has Fallen, con i cattivi che erano i nordcoreani. Stavolta, nonostante l'approfondito studio che abbiamo fatto con Valerio Guslandi, non siamo riusciti a capire bene. Sembrerebbero di mondo arabo, ma non meglio precisato, diciamo così. Anche perché, diciamocelo, al di là del valore del film, insomma, il primo ha incassato 160 milioni di dollari nel mondo, che non è che sia proprio una roba, sì, neanche poco, magari ne è costati forse 50. Ecco, magari si paga le spese. Esatto, la pagnotta l'ha portata a casa e quindi ne fanno un altro. Gerard Butler, sempre protagonista, però di questi tempi, sinceramente, andare ne sentivamo a fare. Non ne sentivamo. Io ne avrei fatto anche volentieri a meno. Detto questo, però, invece, il 9 marzo, lo dicevamo prima, lo preannunciavamo, i teenager che hanno amato Hunger Games, che amano queste saghe distopiche, no? Di questa fantascienza dove l'umanità non è più se stessa, dove le caste si sono rimpadronite del mondo. Ebbene, Divergent Series e Legend, spero che si dica così, stavolta me la devi dare per buona tu, sì, di Robert Schwenke, porterà probabilmente al cinema parecchi di questi ragazzi orfani della ormai conclusa saga di Hunger Games. Sentiamo la clip. Come ti chiami? Mi chiamo Trissa. Benvenuta tra gli intrepidi. Interessa. Con te non ha funzionato. Sono una divergente. Non posso essere controllata. Non ne vale la pena. Sì che ne vale la pena. Vali più tu di me. Tu credi di capire, Beatrice. Ma non è così. Non possiamo andare là fuori. Dobbiamo farlo. Non si torna più indietro. Triss, è un piacere per me incontrarti. Hai salvato la città. Aiutami a salvare il mondo. E allora, il clima è quello che abbiamo narrato. Quello, piace molto ai contenuti, ma sono come quelli dei precedenti. Cioè io non sono molto un amante di questo genere, anche per l'età presumibilmente, per cui ammetto che non li ho visti tutti. Sono molto onesto. Credo che però sia comunque uno dei titoli di maggior richiamo per i ragazzi, invece. E questa trilogia di Veronica Roth che continua, questa però in realtà dovrebbe essere il secondo, non ho ben capito se è il secondo o il terzo nell'ordine poi dei film. Ma sì, perché spesso poi i libri vengono spezzati vengono in due, divisi, quindi divisi. Insomma, c'è sempre un po' di. Però diciamo che rispetto, ecco, questo volevo dire che Hunger Games è stata di questo tipo di saghe, diversa dalle altre per una qualità filmica, a mio modo di vedere, notevolissima, ma soprattutto per la presenza di Jennifer Lawrence. Sì, sì, cioè, Jennifer Lawrence lì faceva un valore aggiunto di qualità, sì, del film straordinario. Lawrence, sì, infatti all'inizio quando ho visto che era andato la parte mi ero un po' stupito, perché le ho viste in altre cose, invece funziona benissimo anche in questo. Quindi assolutamente, assolutamente. Invece il 10 marzo sarà il momento dei fratelli Coen. Il ritorno dei Coen. Assolutamente, che firmano Ave Cesare, il cast è quello dei loro amici, no? George, sì, Clooney, sì. Josh Brolin, Scarlett Johansson, Channing Tatum, Ralph Fiennes e Tilda Swinton, che fa Edda Hopper. Ecco, butta via tutto questo, entriamo un po', acclimatiamoci e ne parliamo. Ave Cesare è un film di prestigio con una delle maggiori star del mondo, Baird Whitlock. Signor Mannix, che succede? Il regista non trova Baird Whitlock. Abbiamo la tua star. Metti insieme $100,000 e aspetta istruzioni. Ciao, Bert. Signor Mannix. Lawrence Toby, grazie di essere qui. Gli studi hanno bisogno di aiuto. Baird Whitlock è stato rapito. Che brutta storia. Per tutte le stelle del cinema. Sono passate 24 ore, ma lo stiamo cercando. Vorrei sapere che diavolo succede. 20 milioni di lettori vogliono la verità, Eddie. La verità? Sì. Allora Valerio, raccontiamo un po', insomma, cosa aspettarsi e che cosa racconta questo nuovo film dei fratelli Coen. A parte che potrebbe anche essere un film di Mel Brooks per certe cose. Comunque racconta di sostanzialmente un attore che è Clooney, che sta recitando in un film, stiamo parlando della Hollywood degli anni 40-50. È un divo che ha i suoi problemi, ma a un certo punto viene rapito, quindi chiedono un riscatto molto importante e questo getta lo studio in crisi, nella crisi, e allora chiamano questo personaggio, che è interpretato da James Brolin, che deve cercare di risolvere comunque i problemi dello studio, e in questo caso il problema è ritrovare il fantomatico Clooney in giro. Naturalmente deve guardarsi dalle male lingue, vedi la tipica Edda Hopper, che era una delle pettegole cinematografiche più note degli anni, che cerca di capire cosa sta succedendo. E allora questo è il nuovo film dei fratelli Coen, Ave Cesare, il 10 marzo nei cinema italiani. Marzo prosegue, lo stesso giorno esce Forever Young di Fausto Brizzi con Teo Teocoli. Tra i vari Teocoli, tra gli altri, la Ferilli, Bentivoglio, eccetera. Insomma, incuriosiva Teocoli. Il suo rapporto col cinema non è stato enorme, diciamo. No, non è stato enorme, non so se per il suo carattere, però perché è sempre un po' difficile Teocoli. Comunque, Qua c'è un ritorno, fa un ruolo da settantenne, quindi, perché il tema di questo Forever Young è più che altro che le età sono diventate un po', si sono un po' rivoltate, per cui abbiamo la Ferilli che è una matura, non si dice l'età, è una matura che però cerca i ragazzini di sera per avere delle avventure, Teteocoli che è un avvocato di 70 anni che però vuole essere giovane, fa sempre queste attività a rischio di cuore. Cioè, c'è un tema di poco riconoscimento della proprietà, diciamo. Esatto, sì. E su questo Brizzi ci punta molto, dice che è una commedia ma è cattiva, mette in evidenza questi nostri difetti temporali e vediamo insomma come sarà. E beh, Forever Young inquadra bene il titolo, questo titolo tipo di patologia, diciamo, abbastanza diffusa nei nostri tempi, il voler essere più grandi di quel che si è o più giovani di quel che si è, senza magari riuscire mai a trovare nel mirino l'obiettivo giusto. No, diciamo, non si trova mai il punto. Allora, 17 marzo arriva Kung Fu Panda 3 e qui siamo... Continua nella linea degli altri Kung Fu Panda, in questo caso lui deve, il famoso Po deve addestrare gli altri panda a essere guerrieri, perché sennò sono troppo deboli, c'è uno spirito maligno che aleggia. Quindi lui finalmente lo è diventato, uno coraggioso, l'ha sempre voluto essere, stavolta può addirittura insegnarlo agli altri. Ma il 24 marzo, un altro dei titoli che in termini di botteghino, di box office, sono fra i più attesi della stagione è Batman vs. Superman. Non è sorprendente che l'uomo più potente del mondo debba essere una figura controversa? Stiamo parlando di un essere la cui stessa esistenza... Ci dicono la verità. Cambia il nostro concetto di priorità. Questo è il nostro pianeta. Nell'universo. Va via! Comincia così. La febbre. La rabbia. Il senso di impotenza. Che rende gli uomini buoni. Crudeli. E allora, Batman vs. Superman Dawn of Justice di Zack Snyder, e anche qui la firma è una di quelle che contano, insomma, nella regia. E poi davanti alla macchina da presa ci sono Ben Affleck, Amy Adams, Jeremy Irons, Larry Fishburne, eccetera, eccetera. Henry Cavill, che è il precedente L'Uomo d'Acciaio, Man of Steel, è un sequel. Ecco, allora, interessante, almeno nel titolo, questa contrapposizione fra due supereroi delle storie di sequel Comics. Che però è tipico, perché se hai presenti i fumetti dei tempi, proprio questo ci stava a pennello. Ma c'era anche Goldrake contro Mazinga. Infatti, metterli assieme. Soprattutto qua sono due supereroi buoni che però si scontrano come se fossero cattivi. Cattivissimi. E forse questa è una delle cose più interessanti anche. Sì, no? Sì, se è trattata bene, chiaramente il film lo dobbiamo ancora vedere. Però sì, non lo so come però sarà. Però se è trattata bene potrebbe essere una chiave, no? Quella di farli diventare un po' come nel Cavaliere Oscuro, un po' dark. No? Ecco, esatto. Cioè, ma infatti anche il trailer, quello che si è sentito, insomma, l'atmosfera non è proprio limpida, esatto. È abbastanza oscura, quindi vediamo, perché sai, Ben Affleck poi nella parte di Batman, non so. Sai che c'ha avuto tutte le polemiche. Vabbè, vedremo un po', insomma, però interessante questo tipo di, come dire, di rimessa, di reboot quasi di due supereroi che, come dicevi tu, sono due supereroi buoni. Batman ha avuto la sua, come dire, è stato già calato nel calderone, nel pentolone della cattiveria, no? Sì, sì, invece sì. Superman è sempre tutto d'un pezzo, è venuto dall'assù, e dai, tutto buono. Anche tu dai una spallata ogni esatto. tanto. E questo allora è Batman vs Superman, 24 marzo 2016. Lo stesso giorno arriva nelle sale anche il sequel del Mio grasso grosso matrimonio greco. Su questo io avrei soprattutto perché, siccome il primo era del 2002, uno si domanda perché sono passati 13 o 14 anni praticamente, certo, tra i due, a che cosa serva. Quindi qualche riserva, diciamo. Sì, ce l'ho, perché poi su quello che c'è da aspettarsi. Sì, sì, sì. Sì, non è neanche un weekend nel quale, diciamo, cioè, i cinema saranno abbastanza penso occupati. Di sì, quindi... sì. E il 31 marzo invece, sempre a proposito di cinema che si ripete, ma intanto il cinema ormai è saghe, reboot, prequel, sequel, remake, no? Ma è sempre stato così. Ma è sempre stato così. A noi sembra che sia una novità, di più. Esatto. Invece no. E però c'è Rings, che è il nuovo capitolo di quella saga horror di The Ring ricorderete, no? L'anello che si vedeva in televisione e poi ti squillava il telefono. Poi c'era il messaggio, se vedevi la cosa in TV, esatto, eri finito. Non era stato male quell'horror. No, era abbastanza inquietante. Non era sarà male affatto. Come sta secondo te, Valerio, l'horror in questo momento? Perché ne abbiamo detto tanti titoli, ne abbiamo visti pochi ancora del genere. Non è un periodo, cioè fino adesso, come periodo che stiamo esaminando e quello precedente, chiaramente di Natale, l'horror è meglio non farlo proprio trapelare. Magari c'è l'horror di casa propria. Ma siamo in una fase di abbastanza standard, non ci sono delle grosse innovazioni. Certo. Cioè che il titolo che dici fantastico ha portato qualcosa di nuovo. Diciamo che forse è anche vero che quando l'horror è quotidiano ed è fuori dalla porta, dopo cioè quando il periodo è difficile, è anche difficile, sì. Poi no. Devo dire che un film che mi era piaciuto molto recentemente, che non è proprio horror, ma ha delle venature che vanno da quella parte, The Visit di M. Night Shyamalan, sì. Che ricorda ragiona su una settimana di ordinaria follia di due ragazzini lasciati a dei nonni. Quello è proprio l'orrore della casa, no? Esatto, però devo dire che Shyamalan in quello se l'è cavata. Riesce sempre molto a creare bene l'atmosfera, sempre. Assolutamente. Quindi poi può essere discutibile perché certe volte esagera, ma in questo caso mi è sembrato anche questa uno casa di quelli è veramente molto gran bel film, sì, gran bel film. Però se lo trovate ancora nelle sale potete andarlo a vedere. Noi adesso stiamo analizzando quello che verrà, e quello che verrà dopo Rings è il mese di aprile, e nel mese di aprile si comincia con l'ennesima riproposizione di un personaggio mitico della letteratura e del cinema come il dottor Frankenstein, con Victor, la storia segreta del dottor Frankenstein. Sì, anche qua siamo abbastanza sulla ripetitività. Paul McGuigan, che aveva fatto Slevin tra i vari film, si è adesso ha scelto questo tipo di storia. C'è Daniel Radcliffe, che comunque ormai sta cercando di affrancarsi dal suo passato, e poi il suo rapporto con il famoso Igor, che tutti se lo ricordano, soprattutto per Frankenstein Junior, certo. No, ecco, è il rapporto tra loro due e i loro esperimenti, è quello a cui portano questi esperimenti. Vediamo, anche qua non avendo molti elementi in più è interessante, però non so quanto porterà di nuovo, ma tutto è ancora da scoprire, non si può dire. Senti, e invece la settimana successiva, il 14 aprile, arriva o ritorna in sala un super classico dell'animazione disneyana come Il libro della giungla, stavolta tra l'altro con le voci di Scarlett Johansson e Bill Murray. Quello è sempre un sempreverde che continua sempre a piacere. Vabbè, Il libro della giungla, Disney fa sempre queste cose periodiche sia nel cinema che in video. Le nuove generazioni hanno bisogno di essere così informate dei fatti. In questo caso questo era uno dei loro classici più belli, quindi torna, ritrova la via della sala. Esatto. E per chiudere questa nostra parte, e per chiudere anche il mese di aprile, io vorrei chiederti qualcosa in più di Il cacciatore e la regina di ghiaccio, The Huntsman, perché qui c'è un cast a partire da Jessica Chastain, un'altra che adoro, ma Virzì non lo so se la adoro. No, Virzì può darsi di no. Se la cava così. Sì, esatto. Però c'è anche Emily Blunt, c'è Nick Frost, c'è Charlize Theron. Sì, sono metà del cast sono quelli di Biancaneve e il cacciatore, di cui questo dovrebbe essere un prequel, quindi tutta una storia ancora che riguarda i tempi precedenti all'altro film. L'altro film era risultato abbastanza interessante, poi con anche la Charlize Theron in questo ruolo di cattiva che non siamo molto abituati a vedere. La Chastain sono d'accordo con te, quindi anche questo è un film che si può attendere con un certo interesse. Certo, assolutamente. E finisce il mese di aprile, e quasi, con Jodie Foster, di cui parleremo fra poco, dopo la viabilità, e poi gran finale verso i caldi, verso la primavera, verso gli ultimi fuochi d'artificio di questa stagione cinematografica. La Rosa Purpurea. Ancora insieme, La Rosa Purpurea, quarta parte del nostro programma, e siamo in primavera inoltrata con questa puntata speciale dedicata, diciamo così, al cinema che verrà in questo 2016, almeno fino alla prossima estate. Siamo al 21 aprile, quando nelle sale arriverà un film molto interessante, almeno sulla carta, che si intitola Money Monster, di Jodie Foster come regista, con George Clooney e Julia Roberts, la storia di un venditore televisivo che ha un programma di grande successo, che si chiama Money Monster. Che si chiama appunto Money Monster, il programma di grande successo, e che però a un certo punto sbaglia investimento e finisce nei guai. Sì, perché c'è uno di quelli che, insomma, una delle sue vittime che se la prende un po' di più e alla fine lo prende in ostaggio. Devo dire che Clooney in questi ultimi tempi nei film lo prendono in ostaggio, lo rapiscono. Abbiamo visto in Ave Cesare che era lo stesso, quindi qua viene messo in difficoltà, ma siccome siamo in TV, la produttrice della trasmissione, che è Julia Roberts, insomma ci marcia su un po', quindi c'è sempre questo parallelo tra la realtà, la finzione, l'intervento per modificare un po', per fare audience. Essendo la regia di Jodie Foster, è sicuramente un film divertente, ma che fa comunque pensare. Allora, 4 maggio, Capitan America, sentiamo il trailer. Capitano, molte persone la vedono come un eroe. Altre invece preferiscono il termine vigilante. Ha sempre agito con un potere illimitato e senza alcuna supervisione. È una cosa che il mondo adesso non può più tollerare. Capitano, mi sembri sulla difensiva. Giornata faticosa. Ti darei un pugno su quei bei dentini. Sai che non lo farei mai, ma non ho scelta. Lui è mio amico. Lo ero anch'io. Capitan America, Civil War di Anthony e Joe Russo il 4 maggio, mentre 15 giorni dopo X-Men Apocalypse di Bryan Singer con Jennifer Lawrence, James McAvoy, Michael Fassbender, Oscar Isaac. Non si faranno un po' troppa battaglia fra di loro? Abbiamo parlato prima di super contro Batman. Sì, e qua ci siamo super contro super. Questi supereroi in 15 giorni, non è un po' troppo? Ma sono degli eroi, quindi supereroi. Se la caveranno. Ma tu i famosi 10 euro su chi li spenderesti? Ma a me piacevano X-Men, per cui sono un po' più di Capitan America. Poi so che molta gente piace anche di più Capitan America, ma sarò cresciuto con gli X-Men. Però gli X-Men, diciamo, poi Bryan Singer è una firma lì dietro. Singer piace di più. Comunque va sempre vista. E siamo arrivati al 25 maggio, quando un altro film di cui si parla già molto, sono quei film super attesi, super lanciati. Super interpretati. Qua. Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Mia Wasikowska, Alan Rickman, e c'è Sacha Baron Cohen, eccetera, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di Alice attraverso lo specchio. Sei stata via troppo tempo, Alice. Ci sono faccende a cui potrebbe giovare la tua attenzione. Quando il giorno diventa notte, l'orologio rintocca sonoro e non c'è tè da preparare. E nell'ora più oscura, prima della mia ultima rima, lei tornerà nel paese delle meraviglie e riporterà le lancette dove erano prima. Il tempo è un uomo ed è meglio non farselo nemico. Alice attraverso lo specchio è di fatto il sequel di Alice in Wonderland, Alice in Wonderland del 2010. Sono passati 5 anni. Si basa sul romanzo Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò, sempre di Lewis Carroll. Qui riconfermato più o meno, insomma, la squadra torna dell'altro Londra, film. A Londra ritrova uno specchio, nello specchio rientra in questo mondo e si ritrova con il bianconiglio, lo stregato, insomma, con i soliti personaggi. Lo dici come se fosse una cosa normale. No, ormai quando si va sulla fantasia, se ci credi, è tutto normale. Va tutto bene, tutto puoi fare 4-5 di film così. Sì. Effettivamente, però è un titolo del quale ci si aspetta molto come incassi. Molto il regista è quello che ha fatto i Muppets, James Bobbin. Esatto. Ha fatto l'ultima avventura cinematografica. Quindi è portato anche lui per questo A favoleggiare. Il 23 giugno, sempre per stare, abbiamo detto X-Men, cioè, l'atmosfera è un po' sempre quella, il sequel a... decenni di distanza di Independence Day. Sì, anche in questo caso si vede che Roland Emmerich non c'aveva altro da fare, non lo so, ha deciso di riprendere la storia di Independence Secondo Day. Secondo me la seconda che hai detto, cioè ha deciso di riprendere la storia e di provare a farci 4 soldi, perché sì, dai, questi reboot ormai è diventato nostalgia anche tutto gli anni 80, ormai anche gli anni 90. Quindi sai, l'effetto nostalgia prendi, riporti fuori, tanti esperimenti recenti hanno dimostrato che la cosa funziona, guarda Terminator per esempio, eccetera. Emmerich dice metto via anche questa. Poi lui è, in queste cose è un maestro di questo tipo di cinema, quindi ha quasi tutto il cast si è mantenuto. Sì, Bill Pullman, Jeff Goldblum, Charlotte Gainsbourg, anche come aggiunta, ecco, che farà piacere a molti. E quindi, però, ecco, non credo che avremo delle sorprese particolari sulla storia. Chiaramente, ecco. Questo è sicuro. 23 giugno potrebbe già essere uno dei titoli che tengono abbastanza sull'estate. Perché poi comincia che si diradano qualcosa un po'... comincia a scricchiolare, ma vedremo. Ci sono altri titoloni, fra poco ne parliamo, prima di arrivare alla fine di luglio, che è il nostro orizzonte temporale. Il 14 luglio, per esempio, arriva il live action di Tarzan. La Disney da un po' di tempo ha cominciato a rimettere fuori i suoi film in carne e ossa, i suoi grandi titoli di animazione in carne e ossa. L'ha fatto con Cenerentola in maniera spettacolare, per esempio, eccetera. Adesso toccherà a Tarzan con Alexander Skarsgård nel ruolo del protagonista, ma con il contorno che dice anche Sammy Jackson, Christoph Waltz, insomma anche qui si cerca poi di nobilitare si nobilitano cantino, sempre, sono sempre ben circondati. David Yates, il regista, quello che ha diretto 3 Harry Potter, io dico e mezzo perché c'è quello che hanno fatto parte prima, parte seconda, per me vale una sola, ma comunque 3 Harry Potter anche in questo caso, però vedi, le scelte sono sempre dei registi mirati su una cosa che sanno fare. Certo, ecco. E questo ci fa pensare che per esempio le atmosfere di questo Tarzan possano avere anche qualche tinta noir qua. Penso là, di no? Sì, perché comunque il personaggio si presta. Certo. Poi qua lui in realtà è fatto alcuni anni dopo, quindi lui è già tornato, non è allo stato brado. Certo. E lo invitano in Congo, ma in realtà in questo invito si nasconde un complotto, insomma, non proprio mondiale, ma un complotto particolare, quindi avrà a che fare comunque con un lato oscuro. Della forza. Della forza. Esatto. il momento è quello. Valerio. Sì. E allora, dicevo, un altro titolo che potrebbe reggere abbastanza l'estate cinematografica, almeno arrivare fino a fine luglio, perché fino qui luglio, ci sì. si è lamentato molto spesso, e anche molto spesso ha ragione da parte degli esercenti, di non avere prodotto proprio da giugno in poi. Qui il 21 luglio mi esce uno Star Trek 3, che se la data sarà confermata è un bel pilastro per tutta l'estate. Sì, è un bel pilastro. Il regista è Justin Lin, quello di Fast and Furious. Alcuni dei Fast and Furious, e questa volta lui ha voluto riportare un po' all'interno dell'Enterprise le cose, vuole fare le spedizioni nei luoghi mai raggiunti nel mondo, quindi dargli di nuovo quello che era poi lo spirito dei primi Star Trek. Certo, e arriviamo all'ultima nostra così suggerimento, prima di passare fra poco ai film da vedere in casa con gli amici di Film TV, perché anche in questo Capodanno bisogna darsi una rinfrescata cinematografica, con un film che io aspetto molto, perché mi ha curiosito sin dalle prime voci di stampa questa versione femminile di Ghostbuster. Sì. Ghostbuster è un culto totale, l'hanno appena finito, ha festeggiato tra l'altro anche il suo tipo 30° anniversario. Messa dell'84, quindi siamo sui 31, 32. È uscito, sì, comunque il musical, sono uscite anche nuove edizioni on video. E arriva un reboot tutto al femminile, nel senso che sono le Ghostbuster. Le donne che sono le donne a dover combattere contro questi i mostri, diciamo così. Poi ci sono le comparsate di Murray e di Aykroyd, perché li hanno voluti. Certo, e i maestri, grandi, come Kung Fu Panda, cioè, sì, i grandi maestri ci vogliono della cosa. Però ecco, è praticamente la storia è sempre quella, cioè New York, sì, infestata dai fantasmi. E tra l'altro, note sul cast: Kristen Wiig e soprattutto Melissa McCarthy. Carti, che è diventata un po' l'icona di un certo cinema action al femminile ultimamente, sì, no? Quindi assolutamente, ed è una delle più in questo momento che va più in voga, e sarà quella che tirerà di più, penso, del gruppetto femminile. Dico penso perché siamo troppo indietro per poterlo sapere. Siamo arrivati al 28 luglio. Adesso andiamo in spiaggia. Esatto. Giulio San Giorgio, già in collegamento con noi da Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto a tutti. Stai aspettando anche tu Ghostbuster al femminile? Ma in realtà non ci stavo pensando molto. Però, anche tu dovevi pensarci un po' di più. Sì, assolutamente. Noi abbiamo fatto una super carrellata adesso di un'ora su il cinema che sarà in questo 2016, però c'è un cinema anche da vedere sul piccolo schermo in questi giorni d'inizio anno. Sabato 2 gennaio su Iris alle 14:20 c'è Il Falò delle Vanità. Sì, De Palma eccentrico, che prende spunto dal romanzo omonimo molto famoso al tempo, si parla dell'inizio degli anni 90 per questo film di Tom Wolfe, un film in cui De Palma fa tutt'altro che l'oleografia della grande mela, ma dipinge una sorta di orgia, un calderone newyorkese riempendolo di una umanità veramente frenetica, scompigliata e veramente acida. Un film dove non si salva nessuno, né i rappresentanti dell'alta borghesia, né quelli del sottoproletariato, né i populisti, né i conisti. Un film che è veramente una beffa nei confronti di un certo di una certa classe sociale, cioè di una certa idea di America. E allora il falò delle vanità, quindi su Iris alle 14:20 di sabato 2 gennaio, alla notte fra sabato e domenica alle 2:20 su Rai Movie è il caso di recuperare I Cavalieri delle Lunghe Ombre. Sì, un film di Walter Hill, che è sempre stato un regista molto fisico, materico, che questa volta invece realizza un film dai toni molto metafisici, invece, dove i banditi sono delle presenze quasi spettrali, ritagliate su una iconografia nebulosa e piena di vento. un omaggio sicuramente a uno dei maestri di Walter Hill, che è Sam Peckinpah. Il tornerà più volte nel genere, ad esempio con Wild Bill e anche con un bellissimo primo film televisivo che si chiama Broken Trail, ma questo sicuramente nel western è sicuramente la sua prova migliore. E allora i Cavalieri delle Lunghe Ombre, Rai Movie, 2:20 di notte di sabato 2 gennaio. Grazie Giulio, ancora buon anno. Ciao Franco, buon anno a tutti voi. E buon anno a chi ci ha ascoltato in questa puntata della Rosa Purpurea dedicata al cinema che sarà, il cinema che verrà in questa prima parte fino alla prossima estate del 2016. Io vi do appuntamento a settimana prossima, 9 gennaio, sabato, come sempre alle 18, qui la Rosa Purpurea, per tornare a parlare di tutto il cinema che c'è in sala in quel weekend. Ringrazio tanto Valerio Guslandi per essere stato con Grazie noi. Grazie a te, buon anno. Ci risentiamo, buon anno a tutti.